Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Questo giorno che deve arrivare in qualche modo mi potrà salvare. E questo giorno che deve arrivare in qualche modo mi salverà. Vi siete svegliati? Vi siete svegliati bene? Buon anno! State guardando avanti o indietro? Perché se c'è un giorno che fa da ponte tra il prima e il dopo, tra il passato e il futuro, è proprio oggi, il primo giorno dell'anno. Allora amici, avanti tutta! E per farmi dare le coordinate, insomma, per non perdere la rotta, mi sono fatta aiutare, ho chiesto aiuto ad un amico caro, Alberto Pellai, che è tornato a trovarmi, a trovarci. Ciao Alberto! Ciao Nicoletta, buongiorno e buon anno a tutti. Ci aspetta un anno tutto da vivere, da godere, da apprezzare, da anche un po' organizzare, Alberto. E siamo ancora in quella fase in cui ripensiamo all'anno che è passato, ci affacciamo a quello nuovo con tante attese, anche un po' di timori. Ce la farò? Ma noi ce la faremo. Intanto andiamo un po' per ordine, facciamo un piano, e a volte per prendere la rotta, la direzione, abbiamo bisogno di parole, di punti di riferimento. Ma io vi darei due parole che sono proprio delle bussole in generale nella vita. La prima parola è consapevolezza. Mm-hmm. Ed è quella capacità che abbiamo di sentire che abbiamo in mano un po' il timone, il pilota della nostra esistenza, con tutto quello che ci può accadere, ma ciò nonostante noi riusciamo a non sentirci in balia degli eventi, e quindi sappiamo chi siamo, cosa stiamo facendo, in qualche modo come stiamo andando. Forse non abbiamo chiarezza sul traguardo, ma abbiamo chiarezza sul percorso. La seconda parola però è leggerezza. Dai, imparare a tirare via, proprio un po' a vivere per sottrazione, a scrostare tutte quelle incrostazioni, tutte quelle cose in più che abbiamo aggiunto, anche tutte quelle preoccupazioni che giorno dopo giorno sono lì a riempirci d'ansia, a contaminare un po' il senso di noi, la leggerezza con cui ci muoviamo nella vita, e che poi ci accorgiamo non ci servono veramente a niente. Io oggi voglio scrivere con tanti amici, mi piacerebbe, allora cerco di scrivere una ricetta per affrontare il nuovo anno. Anche questa è una nuova sfida, un cambiamento, perché noi siamo sempre in cambiamento, non ci fermiamo mai, anche se non lo percepiamo, qualche cosa in noi si trasforma, e tu come medico lo sai. Assolutamente, questo è proprio crescere, diventare grandi, evolversi. Si trasforma nel nostro corpo, si trasforma nella nostra mente, nell'ambiente che ci circonda, che ci influenza. E allora raccoglierei una serie di parole chiave. Due le hai già dette tu e ci hai dato una rotta: consapevolezza e leggerezza. Mi piace, sembra, perché a volte quando c'è consapevolezza noi diventiamo troppo radicati a terra, invece dobbiamo anche imparare a lasciare che il cuore, no, si alzi e voli leggero. E la persona consapevole poi in realtà, anche in termini così nell'accezione psicologica, è quella che sa stare bene nel qui ed ora, in qualche modo quella che è ben immersa nel momento. Mm-hmm. Lo vive con pienezza e fondamentalmente riempie il momento proprio di sostanza, cioè se lo gode, se lo vive, ci è immerso dentro. Ecco, questo significa essere consapevoli, e vuol dire che per esempio non è dedito a tutto quel rimuginio che riguarda indietro, e spesso non possiamo cambiare il passato. No. E una buona cosa, un'altra regola che potremmo portarci nell'anno nuovo è: se noi avessimo un carrettino, sì, che è proprio quella cosa che portiamo dal territorio dell'anno precedente al territorio dell'anno nuovo, e quindi dovrà passare il confine di cui la giornata di oggi è segna proprio marca il territorio. Cosa vorremmo mettere dell'anno che è appena finito? Quali sono le tre giornate, i tre momenti, le tre cose che ci sono successe che in realtà ci hanno proprio dato quel senso di consapevolezza e leggerezza, che hanno aggiunto felicità, che hanno dato senso alla nostra esistenza? Ecco, dobbiamo proprio visualizzare quei tre momenti lì mentre li stavamo vivendo, scattare un'immagine ipotetica del momento perfetto che corrisponde a quegli istanti, a quelle esperienze, le mettiamo nel nostro carrettino, ce le portiamo avanti nell'anno nuovo e ci diciamo noi stessi: ecco, che cosa devo fare da adesso in poi per ritrovarmi in quello stato d'animo, in quella situazione in cui ho capito che stava succedendo qualcosa di bello. Un esercizio che a cui mettiamo il bollino blu, perché è un esercizio, se non ve la sentite, se non riuscite a farlo oggi, potete provare, abbiamo tempo, abbiamo tutto l'anno per farlo, però se riusciamo a farlo entro la prima settimana è forse meglio. E allora io metto subito, provo subito, testo questo tuo esercizio, questo tuo suggerimento con il prossimo amico Andrea Fontana. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Sociologo della comunicazione, noi ci frequentiamo spesso alla Bufala in Tavola. Allora chiedo subito ad Andrea di raccogliere la proposta di Alberto. Sicuramente uno dei tre momenti belli dell'anno che è passato, Andrea, credo sia il giorno in cui hai pubblicato ed è uscito Io credo alle sirene. Senza dubbio, è stato un bellissimo giorno, ma ti dirò di più, sono stati bellissimi giorni anche quelli precedenti nello scrivere il libro e nel capire alcuni funzionamenti della nostra comunicazione sociale di oggi. Perché con Andrea Fontana siamo andati più volte in cerca di bufale, di fake news, e devo dire che a proposito di parole che orienteranno un po' anche la nostra chiacchierata di oggi, del primo dell'anno, la bufala e le fake news sono proprio state parole molto gettonate, Andrea, molto di moda. Direi che il 2017 è stato un anno in cui si è dichiarata guerra alle fake news. C'è anche il programma La Bufala in Tavola che... in tempi non sospetti ha proprio dichiarato guerra le notizie false che sull'alimentazione, che pesano, come amiamo sottolineare spesso, sulla nostra salute e anche sul nostro portafoglio e anche sulla salute di tante aziende. Andrea. È così e dobbiamo imparare a capire quali sono le notizie vere dalle notizie false, come dicevi tu Nicoletta. Il problema, come abbiamo più volte ripetuto in questi mesi quando ci siamo sentiti, è il fatto che ormai si fa molta fatica a distinguere le notizie, le cosiddette fake news dalle notizie più corrette, anche perché viviamo, ricordiamocelo, in una dimensione di misinformazione, cioè di comunicazione e di informazione deformata, per cui siamo tutti noi anche produttori di fake news a volte. Senza saperlo, condividendo notizie. Le bufale artigianali, insomma. Alberto proponeva di affrontare l'anno togliendo un po' di... Alberto, hai detto, liberiamoci un po' di falsi pensieri, limitazioni, eccetera. Liberiamoci anche un po' di fake news, di bufale, di una falsa informazione. Assolutamente, direi. Alleggeriamoci. Poi probabilmente Andrea Fontana ce lo sa raccontare meglio, ma io credo che l'autorevolezza della fonte è probabilmente il criterio migliore con cui ci possiamo mettere in un territorio di sicurezza e di certezza anche rispetto alle news che andiamo cercando. E questo tra l'altro proprio nel settore di cui ti occupi tu Nicoletta, che è quello della salute, del benessere, dell'alimentazione, è di importanza cruciale. Chi mi sta dicendo questa cosa e perché me lo sta dicendo? Andrea, guardiamo l'anno che si è chiuso, quali sono state secondo te, tu che sei un vero cacciatore di bufale, le fake news più importanti, quelle su cui c'è stata anche più attenzione mediatica? Ce ne sono state tantissime, ricordarle tutte sarebbe adesso quasi impossibile. Ti ricordo quelle che mi hanno più colpito, se vuoi, che sono iniziate più o meno a gennaio, quando molte testate giornalistiche anche hanno diffuso la notizia che un asteroide avrebbe colpito la Terra da lì a pochi giorni, all'inizio di gennaio 2017. Cosa che poi puntualmente non è avvenuta. Non si è avverata, meno male. Infatti, oppure altra fake news circolata soprattutto all'estero, quindi ti dico quelle in Italia e anche quelle all'estero, che però ha avuto grande riscontro. Un importante console di videogiochi, a un certo punto verso la primavera, è circolata la notizia che questo importante console di videogiochi uccide i teenager in America e nel mondo. E ha avuto... la marca che produce questa console ha avuto diversi problemi, poi ovviamente immaginiamo è fantascienza questa notizia. Ad agosto 2017 una fake news che ha creato molta polemica, è stato montato un caso politico su due, sembravano due migranti che facevano shopping a Forte dei Marmi con le risorse del governo, non so se ti ricordi Nicoletta, in realtà questi due migranti erano Samuel Jackson e Michael Jordan, quindi attore americano, ex grande sportivo, che sono stati fotografati seduti su una panchina mentre facevano shopping e si è creata, no, la misinformazione, come dicevamo prima, giocando sui malintesi, fraintendimenti, perché poi il problema delle fake news non è che sono soltanto notizie false, che sono notizie che manipolano e giocano molto sul fraintendimento tra verità e fantasia. Oppure un'altra notizia falsa di settembre, questa, una grande azienda di largo consumo nel settore alimentare che produce una bevanda gasata e insomma molto famosa, è girata la notizia che ci sarebbe una bottiglia di questa grande marca che procura l'AIDS. Se si beve da questa bottiglia si prende l'AIDS, che è un'altra, ovviamente, un'altra bufalona, un'altra fake news. Esatto, ecco, a cui esatto. Sicuramente il buon senso ci suggerisce di non credere, ma poi come dei boccaloni ci piace, perché come dice spesso Andrea Fontana, Alberto, fanno parte ormai della nostra dieta culturale. Che cosa prevedi? Quale fake news, quale bufala ci aspetta per il 2018? Che cosa ci stanno preparando, Andrea? Guarda, prevedo il fatto che dalle fake news passeremo alle strange news, ti do questa primizia, cioè il fatto che dalle notizie false arriveremo a parlare probabilmente sempre di più di notizie strane, cioè quelle che nonostante tutto e anche nonostante l'autorevolezza della fonte diventeranno sempre più difficili da capire e da distinguere tra il vero e il falso. Ti faccio un paio di esempi, se ho ancora un po' di tempo. Certo. Ti ricordi della notizia della balena blu arrivata in Italia intorno al marzo 2017? Ne abbiamo parlato anche tanto con Alberto. Alberto, ecco, qua è preparatissimo. Benissimo. Allora, io sono un cittadino medio che si informa abbastanza, però io non ho capito se quella notizia è vera e falsa. Alberto, tu che idea ti sei fatto? A meno che tu non sia un giornalista investigativo, diventa difficile, no, riuscire a cogliere tutta la verità di quella notizia. Quindi per questo notizie strane, perché sono sempre più complesse da dare ad indagare. Oppure un'altra notizia del novembre 2017, quindi di un mese fa. Sì. È circolata l'informazione che la CIA ha desecretato alcuni suoi documenti e da questi documenti desecretati è emerso che Hitler non sarebbe morto in Germania, ma sarebbe fuggito in Argentina subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E queste notizie non sono state passate da siti complottisti o da strani siti online, ma sono state passate dalle più importanti agenzie stampa italiane e estere. Anche molti giornali italiani hanno ripreso, testate giornalistiche italiane hanno ripreso questa notizia. Oppure l'ultima del dicembre 2017, di un mesetto fa circa, nemmeno, quando il New York Times... E quindi diciamo, parliamo insomma non di un giornalino... Esatto, ha fatto un'inchiesta e l'ha pubblicata sul programma segreto del Pentagono per lo studio delle tecnologie aliene UFO e i fondi neri che il Pentagono avrebbe gestito e starebbe gestendo per fare questo tipo di ricerche. Quindi insomma ce n'è. Allora Alberto, così lo coinvolgo subito, per dobbiamo aprire gli occhi, ci aspettano bufale, bufaline di varie grammature, notizie che sembreranno sempre più vere e saranno magari solamente strane, cattureranno la nostra attenzione. Quindi apriamo gli occhi e non perdiamo la rotta. Noi oggi Andrea, insieme ad altri amici, cercheremo proprio attraverso alcune parole chiave di affrontare il 2018 con consapevolezza e leggerezza, e quindi le bufale cercheremo di scansarle, ma poi c'è la bufala in tavola e quindi noi ti inviteremo e tu continuerai a fare il nostro cercatore di bufale, alcune ce le risparmierai. Assolutamente. Grazie Andrea, buon anno, buon 2018. Buon anno a tutti voi, grazie. Alberto, quindi apriamo gli occhi, ritorniamo alle nostre parole, la nostra ricetta del 2018 a consapevolezza, leggerezza, e in questa leggerezza abbiamo tolto anche, per essere più leggeri, abbiamo tolto anche le bufale. Ma poi che cosa dobbiamo essere pronti? Anche ad affrontare le sfide, ad affrontare la vita. La vita è straordinaria, ci viene incontro, ci mette alla prova, e noi dobbiamo essere pronti ad affrontare il cambiamento. Non dobbiamo resistere, dobbiamo essere un po' flessibili come i giunchi, naturalmente con le competenze adeguate, ma poi alla fine ce la facciamo. Sì, la vita accade, e in effetti le persone che vivono meglio non sono quelle che hanno le strategie più incredibili, un sapere e un saper fare pazzesco. In realtà le persone che vivono meglio sono quelle dotate di quella che si chiama la capacità di adattamento alle situazioni. Fondamentalmente l'evoluzione ci ha proprio detto che noi sappiamo sopravvivere meglio e sopravvivere con più probabilità, e si evolve perciò anche nella specie che ha più capacità di adattamento e che è più pronto al cambiamento e alla trasformazione nel qui ed ora, e quindi si adatta in modo significativo alla situazione che gli sta venendo incontro proprio nel momento in cui succede. Life is change, te l'ho pronunciata. Perfetto. Come piace a te, riprendila tu. Life is change. Allora lo facciamo dire dal nostro prossimo amico, perché questo è uno dei suoi motti. Assolutamente, life is change, la vita è cambiamento, perché se non c'è cambiamento non c'è rinnovamento e non c'è passaggio alla prossima meta. L'avete riconosciuto? È Arturo Brachetti. Arturo, grazie, buon sì, 2018. Ciao. Parlare di cambiamento con te, tu sei l'amico che porta questa parola. D'altra parte, anche quando l'ho detto ad Alberto Pellai che saresti stato qui a aprire l'anno insieme a noi, e a te avevo affidato proprio la parola del cambiamento, mi ha detto: Nico, è azzeccatissima, perché chi meglio di te ma può raccontarla? Guarda, forse di cambiare nella mia vita. Come vedi, ho 60 anni e dimostro 10-15 di meno, ma per quello, perché io sono in continuo cambiamento. Beh. E soprattutto non seguo, come dire, la monotonia di quelli della mia età, né rimanere fermo nello stesso posto, né dare... No, tu stai poco nello stesso posto, tu parli di vita, ma io parlerei di serata, perché ma sì, ma 400 questo, personaggi... Ma mi annoio, capito? Mi annoio nella mia vita, mi piace cambiare, quindi la tournée è una situazione ideale. Senti, una tournée che parte tra poco. Tra l'altro noi abbiamo proprio parlato con Andrea Fontana, che ti ha preceduto, di fake news, e tu fai ballare le fake news nel tuo nuovo spettacolo. Sì, nel music hall, sì, ma facciamo tante altre cose, quello è solo un balletto, facciamo anche il cancan con il fuoco, cioè il fuoco che diventano queste donne infiammate che sono il cancan, facciamo sparire il teatro alla fine. Nel music hall succedono parecchie cose interessanti a Torino, ma in questo momento invece io sono in Francia, dove ho appena finito 3 settimane a Lione con il mio spettacolo solo, che verrà in Italia a fine mese. Tra l'altro la Francia ti ama, ricordo che tu hai preso il premio Molière, che è un... Sì, poi mi hanno fatto pure Cavaliere delle Arti e delle Lettere, ma la cosa più bella della Francia è che c'è la mia statua di cera al Museo delle Cere di Parigi, e quindi è una statua che non invecchia, questa maledetta, quindi un Dorian Gray al contrario, capisci? Cioè io invecchia, la statua rimane sempre quella. Noi ti abbiamo preso come cambiamento, ma io direi che le tue parole sono trasformismo, comicità, illusionismo, giochi di luce, ombre, tu le riunisci tutte in uno spettacolo, ma anche nella tua vita, Arturo. Assolutamente, se tu vieni con me in macchina c'ho tutti i gadget, scherzi, musiche, sorprese, anche casa mia è una sorpresa continua, c'ho i passaggi segreti, i muri che si spostano, gli specchi che parlano, l'acqua luminosa, io lo faccio perché ho un bisogno costante di essere sorpreso, ma siccome poi io mi faccio le sorprese da solo, ho bisogno delle vittime a cui fare le sorprese. Ma guarda, ci quindi candidiamo. Pubblico, oh. Io vengo volentieri, Alberto. Ma volentieri, guarda che ti sorprendo veramente. Ma guarda, io ci credo, poi io sono torinese, arriverò sicuramente a vedere il nuovo teatro di cui tu sei il direttore artistico. Sì, il music hall, questo in via Juvarra che abbiamo riaperto da poco, è veramente un gioiello unico, perché sembra di essere a Parigi, sembra di essere in un teatro fine secolo un po' folle, con tutte le 400 lampadine. È vero che sono tutte fatte a mano? Sì, sono fatte a mano da una ditta di Milano, pensa, che facevano da padre in figlio lampadine da 3 o 4 generazioni, se proprio vuoi sapere. Quindi è un po' tutto mescolato, non si capisce che cosa è vero e che cosa vero, è tutto un po' come la vita, nel teatro, ti stupisce sempre. L'illusione. Ma l'illusione è una componente costante della vita, perché quando tu mi racconti una cosa, ok, un fatto, lo stesso fatto può essere raccontato da un tuo amico in un'altra maniera, da un altro, testimone da un altro, allora non è questa già un'illusione? Qual è il fatto vero? È un insieme di tutti. Arturo, ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa e poi ritorniamo insieme con Alberto Pellai e Arturo Bracchetti, la vostra salutare ossessione, per iniziare con delle parole chiave questo 2018 che sarà fantastico, credeteci. Obiettivo salute. Buon 2018 se vi siete sintonizzati ora con me. Tanti auguri, li facciamo a tutti voi, alle persone a cui volete bene. Il motto di oggi è avanti tutta con consapevolezza, leggerezza, life is change, è il motto di Arturo Bracchetti che è in linea con noi, che ci dà la sua ricetta per affrontare un anno con positività, energia, con la capacità di accettare e trasformare anche quello che la vita ci mette di fronte, Arturo. È un po' una magia. A volte quando arriva una cosa magari brutta, io la vedo sempre come una prova che ci dà la vita per raggiungere qualche cos'altro di migliore. Quindi anche un po' di sfiga ogni tanto ci fa bene per apprezzare poi magari quel che ci rimane e o certo. Ci arriverà di bello. Perché così ci tariamo, Alberto. Sì, io invito gli ascoltatori a utilizzare la parola che forse Arturo ha detto più frequentemente in questa conversazione, che è la parola sorpresa. Sorpresa è una delle 6 emozioni primarie che sono scritte nel nostro DNA emotivo, il che significa che non possiamo non sperimentarla, non viverla, non provarla nella vita. In realtà delle 6 emozioni, la sorpresa è quella che noi frequentiamo di meno, soprattutto nella nostra vita di adulti. La sorpresa invece porta la meraviglia nella vita, e in effetti chi va a vedere, io mi sono davvero goduto degli spettacoli di Arturo, voi uscite che siete invasi dalla meraviglia e ve l'ha proprio scatenata quella gioia incredibile che a ogni cambio di abito, di scena, di situazione, c'è una sorpresa dietro l'altra e vi rimetterà in contatto probabilmente lo spettacolo di Arturo con il bambino interiore di cui avevamo già parlato anche nella trasmissione del 26 dicembre. Arturo, leggo un'altra come tua frase. Bene. Oh, ma vedi questo Alberto quanto è bravo. Leggo, è la realtà immaginata quella che ci rende più felici. Assolutamente. Questo lo penso veramente, perché ciò che noi inventiamo nella vita, ciò che noi interpretiamo dalla vita, che ci dà quella consolazione che ci rende più felici, anche se magari sappiamo benissimo che non è la verità assoluta. Cioè, faccio un esempio, se una signora si toglie 10 anni di vita perché dice ma io non le dimostro 50, ne ho 40, se uno dice ma io perché devo fare il poveraccio, io voglio far finta che ho più soldi di quelli che ne ho, quelli che dicono di avere 2 fidanzate non ne hanno neanche una, cioè, gente che si inventa delle illusioni, e secondo me sono l'80% delle persone, lo fanno spesso per stare meglio, cioè una realtà immaginata, parallela, che poi diventa verità, perché se l'illusione della cinquantenne che si fa passare per 40 anni, se l'illusione è ben fatta, tutti le danno 40 anni. È importante crederci. E crederci. E poi quella cosa che diceva lui era veramente molto interessante, perché quando poi si diventa adulti e la meraviglia e la sorpresa diventano sempre meno, perché si conoscono, come dire, il l'envers du décor, come dicono i francesi, il dietro delle scenografie, io vivo spesso della sorpresa recata agli altri, quindi mi piace da morire fare delle sorprese sia a teatro ma anche nella vita. Allora guarda, una bella sorpresa che potresti farci è venire qua negli studi di Radio 24 all'improvviso. Io ho anche le dirette video, così una volta i nostri ascoltatori, che diventano anche invece mi seguono in video, paf, appare Arturo Bracchetti. Ma se non volete aspettare uno dei miei travestimenti, così ti frego. Bravo, magari così capito, ti arriva un prete, un rocker, una roba così, invece sono io poi. Intanto ricordiamo, tu sei in tournée e quindi diamo un appuntamento agli amici che vogliono sognare, ritornare i bambini, puntare anche sulla meraviglia e sulla sorpresa che nutrono anche la nostra vita. Assolutamente. Perché guarda che quando tempo fa venne un bambino nel mio camerino, mi disse: ma adesso che è finito lo spettacolo torni a casa in taxi oppure voli? Carino, meravigliosa. Questa è veramente meravigliosa. Va bene, ho riempito tutto l'anno. O in taxi o volando, noi ti aspettiamo qua. Grazie Arturo, buon anno. Grazie. Buon anno, un abbraccio. Allora, consapevolezza, Alberto, leggerezza, meraviglia, sorpresa. Io direi anche cambiamento. Queste sono, ne aggiungiamo ancora perché la ricetta diventa lunga. Io direi anche positività, sorriso, guardare lontano. Sì, riprendiamo proprio anche un po' il messaggio che ci ha dato Arturo, no? Il fatto è che se noi ce la raccontiamo, un po' vuol dire che ci crediamo, ma man mano che ci crediamo, poi quella cosa non è che diventa vera al 100%, ma di sicuro ci mette nelle condizioni per poterla raggiungere più facilmente, e conseguentemente anche la nostra mente in qualche modo si prepara ad andare verso ciò che sogniamo o desideriamo. E allora ogni mattina, a proposito di positività, indossa uno splendido sorriso e affronta la giornata da vera combattente. Perché? Perché per affrontare le sfide che la vita ci mette davanti, a volte bisogna essere capaci di lottare, ma farlo con determinazione, senza perdere quella positività, quel coraggio, quella parte buona di noi. E in questa ricetta io chiedo l'aiuto della nostra prossima ospite, che è un'amica, voi tutti la apprezzate, la conoscete, il famoso giudice di Ballando con le Stelle, Caroline Smith. Ciao Caroline! Ciao! Allora, sorridere è il modo migliore per affrontare il nuovo anno e soprattutto per affrontare tutti gli intrusi che la vita ci fa incontrare, con cui la vita ci mette a contatto. E infatti è la migliore cosa che noi possiamo fare, è una mia abitudine di vita, e poi mi ha aiutato tantissimo il mio percorso degli ultimi 2 anni come intruso. Ma io dico, abbiamo tanti intrusi, che può essere per esempio che va male a scuola, che c'è male al lavoro, cioè problemi di relazioni, però se noi affrontiamo la mattina, guardare lo specchio, indossare un sorriso, e si può affrontare la giornata molto molto più positivamente. Caroline, io ho detto, tu sei una combattente, noi ti vediamo a Ballando con le Stelle, sei un giudice bello tosto, ma mi sembra che nella tua vita, come di fronte alla malattia che è così che hai affrontato, tu hai messo la tua professionalità, il tuo modo è di mantenere il ritmo, che poi è una danza. Tu hai sempre danzato, certo, con la vita, per professione nella vita. E il titolo del tuo libro lo racconta, perché infatti hai deciso di mettere la danza e di mettere la tua malattia. Ho ballato con uno sconosciuto. Infatti, soltanto che lui non si è reso conto con chi stavo ballando, e diciamo che ho vinto io per il momento. È una cosa, il ritmo della vita, il ritmo della danza, il ritmo di tutto è molto molto importante, e poi affrontare qualsiasi situazione con positività, anche quando veramente che non è meno positivo. L'indole della mia madre mi ha tirato su veramente bene, devo dire. Senti, soprattutto perché mi sembra, leggendo il libro, vedendoti anche come giudice, come sproni anche le coppie, l'indicazione è non mollare mai, non si deve mai mollare. E questo è anche un invito, una parola, una direzione che noi vogliamo tenere per il 2018. Alberto, qua abbiamo bisogno dello psicoterapeuta. Ritmo, che vuol dire... Ma tenere il passo, in realtà non sempre noi possiamo scegliere la velocità con cui la vita ci fa correre, ed è proprio una bellissima metafora anche Ballando con le Stelle, perché ci sono delle prove in cui i concorrenti non sanno esattamente quale sarà il ritmo su cui è la musica su cui dovranno ballare, e quindi devono essere pronti lì in quel momento a trovare il passo, a trovare l'armonia, a trovare il ritmo, a trovare la corrispondenza con l'altro che ti sta davanti. Secondo me la danza è una magnifica metafora della vita, e Caroline Smith, che ne è una testimone, una protagonista di primo profilo, ce lo racconta. Ha saputo veramente danzare in tutte le situazioni che la vita le ha messo davanti. Ecco, danzare, che è proprio questo rimando a qualche cosa di bello, di armonioso, che richiede equilibrio nel corpo e nella mente, come quello che è necessario per affrontare la vita. E la danza ti ha aiutato, è forse un modo di affrontare le cose che tu hai proprio anche con, sì, e ne parli con l'insegnamento della tua mamma, l'educazione, perché tu hai, ecco, davvero attraversato dei momenti molto complicati nella vita. Molto, sì, ecco, abbastanza. Allora, io posso dire che quando ho frequentato in pratica le stanze dell'oncologia a Padova, alla IOV, io costantemente vi dicevo a tutta la gente: meno male che sono una ballerina, perché mi ha aiutato a affrontare veramente tante situazioni dove non si sente il dolore, deve andare avanti, prescinde di qualsiasi situazione. Allora, la danza, anche per il discorso della coordinazione, e poi io ho avuto qualche problema che non sentivo più nei piedi e nelle mani, e poca per volta che stanno tornando queste sensazioni, però diciamo che ho dovuto affrontare tutto, cioè ricominciare tutto da capo, che mi ha fatto anche bene, perché ho iniziato a imparare le cose che forse che mi sono dimenticato tanti anni fa, perché era talmente scontato che come dovevo usare il corpo, poi all'improvviso non hai più coordinazione. Allora il ballo mi ha insegnato ad avere questa coordinazione, la musica. Quindi tu hai continuato a ballare. Allora, gli amici che ci stanno ascoltando in questo primo giorno dell'anno, i nostri auguri, la nostra indicazione è: ballate, continuate a ballare. Sì. Ho ballato con uno sconosciuto, e scrivi: io sorrido e non mollo mai, perché fin quando c'è la musica, il ballerino continua. Ti porta in un'altra pianeta. Poi quando ascolta la musica e poi balli, si dimentica tutti i problemi che abbiamo, perché non c'è spazio per altro, e questa è già una cosa molto molto bella. Poi la musica che ti dà qualche sensazione dell'anima splendida, e abbiamo bisogno tutti da sorridere di più e tutti a ballare di più. Grazie Caroline, buon anno veramente. Grazie. Di cuore. Grazie. Avanti tutta. A voi. Avanti tutta. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Hai sentito? Che energia. Che energia. Sai che io direi che le due parole che mi raccontano meglio l'incontro che abbiamo appena fatto con Caroline Smith sono, da una parte, una che abbiamo detto, leggerezza, e dall'altra rigore. Io credo che lei, anche per come l'ho vista, no, giurata, è proprio, unisce questo duplice codice del rigore e della leggerezza. Ci vuole anche disciplina. E poi continuare, non mollare, impegnarsi. Pausa, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, ma ritorniamo insieme con un nuovo amico. Alberto, tu sai chi c'è? Prova a descriverlo. Per me è il più bello. Quindi di un trio. Potremmo anche provare a dire che lui è un terzo, però poi è più di un intero. Obiettivo salute. E chiudiamo in bellezza con quello che per me è il più bello del trio. Alberto, tu hai dato una descrizione un pochino più... un po' criptica. Sì, ma anche perché vuoi fare quello un po' più... Io ho che detto gioca che di più è con un le parole. Terzo, perché se prendete una torta e la dividete per tre, quello è un terzo, no? Però vale più di un intero. È lui. È lui. Allora, diciamo a questo lui... che è un terzo più che un intero, ma soprattutto il più bello dei tre, di presentarsi da solo, perché è di casa, poi è un mio amico ed è il primo dell'anno, io ho fatto tutta la trasmissione, adesso voglio un po' godermela. Si presenti da solo. Buongiorno. No, ma sono un po' esitante perché sono arrossito molto, non mi vedete, però vabbè, sono le solite cose che mi dicono un po' tutti, il più bello, l'intero, però ma se... è un po' come se fosse sempre la prima volta. Lo so, anche a me, sai, dicono sempre sei molto bella, sei intelligente. Alla fine uno poi si abitua, però noi siamo carini perché riusciamo pur nella ripetitività trovare sempre quella cosina che ci piace. E del resto la parola chiave da cui siamo partiti oggi, Giacomo, è la parola consapevolezza. E siccome tu sei un magnifico trentenne, bisogna alla fine arrendersi all'idea e essere consapevoli che se uno è bello, se uno è bravo, e se uno è un terzo che vale più di un intero, questa è la verità. Esatto, oppure si potrebbe anche dire che bisogna cercare di essere consapevoli che siamo limitati. Beh, tu limitato poco, direi. No, vabbè. Tu ti limiti poco, direi. Non so se sei poco limitato, ti limiti poco tu, ma insomma, non limitarti e dacci la tua parola dell'inizio dell'anno. Poi chissà dove andranno a finire queste parole. È stata un'occasione anche per stare insieme a degli amici. Abbiamo parlato, ci siamo un po' buttati sul cambiamento insieme ad Arturo Bracchetti. Certo che lui, insomma, ecco, tu poi Arturo lo conosci molto bene. Benissimo, Arturo, ecco, lo conosco. Ne sa di ogni, eh? Ne so di ogni, siamo coetanei e poi sono quasi 30 anni che ci conosciamo e con lui abbiamo condiviso avventure teatrali meravigliose. Infatti sai allora, che volevamo mettervi insieme, però io ho detto faccio la carambata del primo dell'anno, no. Allora vi ho tenuto separati, sai perché? Perché così vi godo di più, se no parlavate tra di voi e con Alberto mi tagliavate fuori, era un attimo. E invece no, voglio come nel 2018 voglio avere, come mi ha detto Alberto, il volante, cosa mi hai detto? Il volante in mano, per cui non te l'ho fatto incontrare, tanto voi vi incontrate già, invece tu sei tutto per noi, bellone. Allora, quando si parla dei propositi dell'ultimo dell'anno, voi lo sapete, no? Siete esperti, che il rischio di non realizzare è altissimo, no? Perché anzi direi che io ho appena... mi sono occupato di questa cosa qua, secondo me per il 97% i propositi non vengono realizzati, ma per colpa nostra. Però anche se c'è questa cosa qua, secondo me non dobbiamo demordere, perché se ci proponiamo dei propositi vuol dire che perlomeno riconosciamo che non siamo proprio perfetti, che vogliamo non solo egoisticamente qualche cosa di meglio, ma forse anche migliorarci un po', no? Vabbè, insomma, la faccio breve. Io il mio proposito, spero di mantenerlo fino al 30 dicembre del 2018, è quello di essere meno, non so come dirlo, se vogliamo dire alla francese, meno incazzoso, no? Se vogliamo dirlo in italiano, un po' meno aggressivo, no? Perché credo che questa cosa qua sia un po' la chiave del metterci in relazione con gli altri, no? Pensa sempre, adesso io la parlo in generale, ma in realtà dovrei parlare di me, okay? Di essere i migliori, di avere le idee migliori, di avere il punto di vista più giusto, più, e gli altri li si considerano poco. E allora, pur di tenere fede a questi principi sbagliati, a volte si rischia di essere aggressivi. Ecco, pregherei al Dio che sta da qualche parte di aiutarmi ad essere meno aggressivo, e quindi se sei meno aggressivo sei più disposto ad ascoltare gli altri, a sentire le ragioni degli altri e magari a dire che gli altri hanno ragione. Ogni tanto. Esatto. Beh, Alberto, anche tu potresti fare un proposito. Ma intanto... Tu non sei uno che si arrabbia, perché lo psicoterapeuta si arrabbia poco. Si arrabbiano anche loro, gli psicoterapeuti. Si arrabbiano, mamma mia, quando si arrabbiano... Hanno dei momenti terribili. Pensa che mio figlio ogni tanto, il mio primogenito, mi dice che farà di me... proprio girerà dei video dei miei momenti peggiori, li caricherà su YouTube e così verrà smascherato il lato B degli psicoterapeuti, almeno di me, perché gli altri saranno tutti tutti tutto, scusami, adesso spezzo una lancia in favore dei psicoterapeuti. Se ti devi, diciamo così, sopportare bonariamente tutte le angosce, le nevrosi degli altri, dovrai sfogarti anche tu. Sì. Io credo che la legge della pentola a pressione vale un po' per tutti, no? Quando c'è troppo vapore dentro, poi ogni tanto qualche sbuffo è più che lecito, anzi è salutare. Sì, è. Non mi diventate però troppi perfetti, Giacomo, soprattutto tu, perché se non ti neanche ogni tanto, mamma mia, come possiamo? L'Alberto lo sa, il psicoterapeuta lo sa, che questi propositi qui vanno a finire nel nulla. È già tanto che riconosciamo il difetto, no? Capito? Ma non è che non solo per oggi, poi domani ci siamo già dimenticati. Però Alberto, allora, io se volessi dire qual è il proposito da inseguire un po' nell'anno nuovo, anche alla luce di cose che riguardano me in prima persona, la mia vita, ma se penso anche ai miei pazienti, mi accorgo che a volte noi davvero corriamo dalla mattina alla sera, ci affatichiamo perché le vogliamo fare tutte e poi veramente non ci godiamo niente e fondamentalmente denutriamo la nostra vita invece che pensare che sia qualcosa che va nutrito e sostenuto. Noi siamo al mondo per nutrirci, per essere proprio dentro un contesto nutriente. Quindi io il proposito che farei con tutti è quello proprio di dedicarsi un po' al culto della bellezza, non la bellezza estetica. Tu, io davanti la Nicoletta non posso che non parlare di bellezza. Certo, per vero, te l'ho proprio suggerita. Pensa se c'era anche Giacomo, non so. Però meno male Giacomo che non ci sei anche tu. Considerate che noi rimaniamo veramente colpiti dal bello quando ci confrontiamo per esempio con una musica che sa veramente toccare le corde della nostra anima, quando entriamo in un libro e scopriamo che non vogliamo uscirne più, quando ci andiamo al cinema e vediamo un film e quando siamo usciti ci scopriamo cambiati perché l'esperienza che abbiamo vissuto era così intensa e così profonda. Allora mi verrebbe proprio da dire: mettete un po' più di questi elementi nel vostro nuovo anno, andatevi a cercare la musica che vi piace tanto, magari anche quella che avete tanto gradito quando eravate degli splendidi ventenni o trentenni, rimettetela a suonare nel vostro computer o nel vostro CD player se ne avete uno, riandate a prendere quei due o tre libri che hanno lasciato il segno, riguardatevi quei film che non riuscite a dimenticare perché sono rimasti dentro di voi, riappassionatevi a quel bello lì e poi andate a cercare anche il bello nuovo che ancora non conoscete. Per me, per esempio, se dovessi dirti una delle cose che mi piace fare a volte, entrare proprio in un negozio di musica e di DVD e prendermene 10 leggendo le schede che ci sono sulla copertina del DVD, oppure io ascolto la musica in cuffia, ancora alcuni negozi hanno questo, sento una canzone che mi piace tanto di quell'artista e dico ok, mi prendo 3 CD di cui non so niente. Bello. E poi mi lascio scoprire dal CD mentre lo ascolto. Ma Giacomo, hai sentito tutto questo lavoro? Devo dire che uno che non è così improvvisato, lavora molto su di sé, Alberto. È impegnativo. Però questa cosa qui la faccio anch'io. Io per esempio vado in libreria, non conosco un autore o che cosa, sono colpito dal titolo, dalla copertina, e anch'io vado a guardare la quarta di copertina se il riassunto della storia è intrigante, allora mi faccio. È un modo per farsi sorprendere, tutto sommato. Ma come siete tutti siete tutti bravissimi, però adesso guarda. Dai, dimmi anche qualche cosa oltre che qualche difettino e soprattutto qual è adesso, chiudi con noi, si inizia entro gennaio, qual è la cosa che vuoi fare? No, una cosa che non voglio fare perché ho un difetto, giusto? O vuoi o non vuoi, un progetto, una cosa da togliere o da aggiungere? O no, una roba che fa ridere però un pelo cattiva, la dico perché so che con me la fanno anche in tanti. Prima raccontavo che andavo in libreria, se vai in libreria, se vedo, tanto non farò mai nomi, quindi non insistere, vedo un autore che mi sta antipatico, allora lo copro con un altro libro. Prima sono stato in una libreria qua di Milano e ne ho coperti tre e non vi dirò mai chi mi sta in quel posto. Senti, ma non hai idea, ecco, per quindi non ti arrabbierai, perché forse così si arrabbia di meno, perché se tu scarichi e copri questo i libri, questo è proprio lo sbuffo del vedi, vapore della questo è uno pressione. Sbuffo questo è uno sbuffo, così coprendo i libri di chi non ti piace riesci compro. A non come non so che lingua volete che usi, perché francese. Io sono poliglotta, incaser incaser e fine. Allora però, dato che io e te abitiamo abbastanza vicini, ti seguirò, ti tampinerò, perché quando entri in libreria butto l'occhio. Non coprire i miei e Giacomo di libri. No, tu no, veramente non, perché sei. Ma se vende anche in Cina questo Alberto, cosa ne dobbiamo fare? Diventa lunga andare in Cina. Allora, devo salutarmi, proprio quando mi stavo divertendo. Giacomo, vieni, tra i propositi del 2018, vieni tu. Certo, basta che mi chiami e io vengo, io rispondo all'ordine. Va bene, grazie. No, no. Grazie, almeno, un abbraccio a Giacomo. Che non sia in giro a coprire dei libri. Va bene, buon anno, grazie. Buon anno a tutti. Hai sentito, ciao. Alberto, attenzione, se mi fai arrabbiare vado in libreria e copro tutti i tuoi libri. Tremenda vendetta. Va bene, meno male che io non ne faccio, così domani noi ci sentiamo di nuovo, è come se nulla fosse. Buona giornata, buon anno, dai che domani è un altro giorno, ce la faremo. Alberto. Buon anno e sia un anno di consapevolezza e leggerezza. Io ritorno noioso come sono le prime due parole. Attenzione ai libri. A domani.